face of our common dangers. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. I don't know, Major, that the independents who voted yesterday were necessarily all independents who voted for... È il giorno dopo dell'anniversario, è anche il giorno dopo del voto, seppur parziale, è il giorno delle riflessioni, il giorno delle valutazioni e anche il giorno della ripartenza della cosa americana, perché grandi naturalmente sono le sfide che attendono l'amministrazione degli Stati Uniti d'America, altissimi gli ostacoli da superare e complessi, se non in certi casi misteriosi, i meccanismi che possono condurre a successi ma anche a disastri. Noi crediamo che comunque intanto convenga ragionare un po', capire, no? E non sottovalutare, ridimensionare troppo, come invita a fare invece nella voce, nell'intervista che avete sentito in apertura, David Axelrod, dello stratega prediletto di Barack Obama, insomma, che tende a ridimensionare. Abbiamo saputo che Obama a malapena ha seguito il voto, insomma, ma tanto ci sarà da dire a questo riguardo. Abbiamo invitato due amici di vecchia data del nostro programma, ovvero Guido Molteto, capo della redazione esteri di Europa, e Andrea Mancia, vice direttore di Liberal, per discutere insieme, fare un piccolo punto, che sia poi anche un punto di partenza attorno alla questione americana. Io li saluto e li ringrazio entrambi. Ciao Guido. Ciao, buongiorno a tutti voi. E ciao anche a te Andrea. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, io vi lancio, ragazzi, vi lancio alcuni temi di discussione, che poi sono quelli principali sul tavolino, e proviamo un po' con il vostro know-how e con le vostre opinioni a cercare di aiutare anche chi è interessato a decifrare questo voto e tutte le sue possibili proiezioni, insomma, orientarsi un po' all'interno del giorno dopo. Io partirei prima di tutto dal distinguo, un distinguo politico, ma anche carismatico e anche di leadership, che molti analisti oggi stanno mettendo su carta tra Barack Obama e il Partito Democratico americano, ovvero dove passa, è passato e ha vinto Barack Obama, non è detto che lo sappia fare con diversi esponenti anche il Partito Democratico, e la prova sono appunto i risultati di ieri in stati dove Obama aveva vinto, si è perso. Questa è una indicazione importante, soprattutto in vista del grande scivolo che comincia ufficialmente oggi, ovvero quello verso il voto del 2010, il novembre 2010, tra 12 mesi, quando veramente si potrà cambiare faccia o no alla politica americana. Quindi Guido, cominciamo con te. Barack Obama e Partito Democratico, due enti, diciamo così, due agenti della politica americana che tendono a collimare sempre meno, oppure invece esiste, come dire, un mix di responsabilità, un'appartenenza e in quanto tale, insomma, una corresponsabilità in questi risultati? No, e questo è un dato politico che è molto evidente in queste elezioni, appunto della incapacità di trasferire la grande personalità, la grande capacità carismatica di Obama sui candidati, perché anche tutti i risultati che lo dimostrano, cioè che appunto anche in posti come la Virginia e il New Jersey, dove soprattutto poi il New Jersey, dove Barack Obama si è speso in prima persona diverse volte andando a sostenere il candidato Corsain, ecco, si è visto che appunto questa magia di Obama è sua e basta, anche se c'è un'altra scuola di pensiero che afferma che i cosiddetti Obama Democrats invece riescono a fruire in qualche modo del magic di Obama. Per esempio viene citato il caso di Craig Deeds, mm-hmm, che ha portato avanti una campagna cercando di prendere le distanze da Obama, mm-hmm, e ha tenuto a specificare di non essere un Obama Democrat. Mm-hmm. Allora la base obamiana dice, ecco, vedete che cosa significa quando si prende le distanze dal presidente, si corre il rischio di essere sconfitti. Però rimane rimane questo come, come problema, secondo me. Infatti esiste anche paradossalmente un problema riguardante proprio la, la overexposure di Obama, la iper il suo essere ubiquo. Certo. Noi abbiamo parlato di ogni presidenza, che quindi toglie spazio a tutti gli altri, lo concentra molto sulla sua personalità nel bene e nel male. Sentiamo Andrea, cosa ne pensi di questa coincidenza? Insomma, Obama è un democratico con la tessera in tasca, esiste una, no, una corsa comune, una corresponsabilità anche quando i risultati non sono positivi, o veramente ormai il leader è una cosa, e la sua personalità è così più grande della vita, come dicono gli americani, che poi il partito può avere esiti del tutto diversi? Ma io innanzitutto distinguerei nettamente fra New Jersey e Virginia, perché sono state due dinamiche elettorali veramente diversissime. In New Jersey Obama si è speso moltissimo, ha girato lo Stato veramente lungo e largo per provare a frenare l'emorragia di consensi per Corzine, quindi diciamo sotto questo profilo anche lui può avere un contraccolpo dalle elezioni. È però vero che Corzine era un governatore veramente poco popolare, perché io credo che nessun governatore che entri nelle ultime fasi della campagna elettorale col 37% di job approval possa mai vincere un'elezione. Lì l'elezione era incerta perché c'era questo terzo incomodo che era Daggett, ex repubblicano indipendente, che diciamo un mese prima delle elezioni sembrava poter attrarre abbastanza consenso da parte dell'elettorato repubblicano, che comunque ricordiamo in New Jersey è estremamente minoritario, cioè in New Jersey certo, i democratici certo. hanno una superiorità strutturale fortissima. Corzine però era veramente un candidato troppo debole per poter essere rieletto. Quello che si può imputare a Obama è che il suo magic, per chiamarlo come lo definisce Guido, non è bastato, ecco, a risollevare le sorti di un candidato così perdente. Sentite ragazzi, datemi una a questo punto una definizione, una risposta secca con una frase massimo di motivazione, quindi alla successiva domanda: per voi questo voto è stato un referendum su Obama o no? Guido? Non lo è stato, ma lo è stato, cioè nel senso che se si vedono i dati in maniera molto specifica, le due cose non c'entrano niente tra loro, Obama e l'andamento del voto, però la cosiddetta storytelling, la storia che verrà raccontata sul voto, ci dice che invece è stato un referendum e così sarà vissuto in ogni caso, che è poi la stessa cosa secondo me. Ormai la politica va letta su questi due piani, cioè quello della realtà reale e poi di quello che viene narrato intorno a un evento. Certo. Allora, la narrazione è ormai questa qui, è stato un referendum su due, anche se non è vero secondo me. Certo. Andrea? Ma io sono abbastanza d'accordo con Guido, aggiungerei però che c'è un 20% di referendum reale su Obama ed è stato in Virginia, perché lì lo spostamento di voti da un partito all'altro è stato troppo grosso e troppo importante in uno stato che era considerato diciamo il simbolo dell'insorgenza democratica anche demograficamente, no? Nuovi elettori, comunità nera più coinvolta, e lì insomma perdere di 20 punti in uno stato conquistato appena un anno fa, dopo che dal 64 avevano sempre vinto i repubblicani, è troppo pesante per non poter avere ripercussioni su Obama direttamente. Bene, si apre a questo punto un altro aspetto attorno ai ragionamenti possibili su questo voto, che riguarda invece il Partito Repubblicano. Pare, insomma, ormai ufficiale che ne esistano in effetti due: uno centrista, riformista, attento magari alla cosa fiscale, alla protezione di alcuni valori, di impronta però costruttiva, no? Aperta anche a compromessi politici, e uno di stampo ben diverso, insomma, che fa capo poi all'esempio sempre più diffuso di Sarah Palin, di Limbaugh, che sembra intenzionato prima di tutto a distruggere il potere democratico, a smantellare Barack Obama, antepone questo, si direbbe, anche questa riconquista del potere anche a un buon andamento nazionale, e i due, diciamo così, partiti repubblicani o conservatori, chiamateli come volete, sono in forte concorrenza. C'è addirittura un'energia che sta fluendo, si direbbe, tutta in una direzione. Ci arriviamo tra poco, prima un attimo di musica, il traffico, e poi ne parliamo con Andrea Mancia e Guido Molteda. Buongiorno America. Civil war that's going on in the Republican Party. They're eating themselves and it's questa è la democratica del congresso, Debbie Wasserman Schultz, che commentando l'esito di questo simbolico, no, distretto 23 dello stato di New York, e parlando del partito repubblicano, dice: si stanno eating themselves, si stanno mangiando tra di loro, insomma, queste due anime che difficilmente riescono a convivere. Sentiamo cosa ne pensano in prospettiva e anche sulla base di questi risultati i nostri ospiti. Guido. Ma c'è una forma, per certi versi, anche autodistruttiva da parte dei repubblicani, almeno della destra repubblicana, rispetto al loro futuro. Noi abbiamo intervistato come Europa recentemente Max Blumenthal, che ha scritto un libro molto interessante che invito a leggere, Republican Gomorrah, Inside the Movement That Shattered the Party, cioè l'idea appunto che la destra estrema stia in realtà monopolizzando l'agenda repubblicana e che quindi non ci sia un futuro da questo punto di vista. Che è quella veramente emergente, in un certo senso, un esito lo si può leggere in questa direzione. Sì, anche se diciamo i candidati che hanno vinto questo turno elettorale sono esponenti della destra, però hanno portato avanti un discorso molto, per certi versi addirittura moderato, e molto, molto puntato sulle questioni economiche, non sulle questioni valoriali. Certo. Questo è anche un punto molto interessante da notare di questo giro elettorale. Sentiamo Andrea, Andrea, secondo te quindi esiste davvero una prospettiva di uno slittamento così violento che abbia poi delle finalità, delle risultanze interessanti in vista delle prossime scadenze elettorali? Non è come sempre pericoloso estremizzare? Ma io diciamo che è un'interpretazione proprio diversissima. Dici. Intanto bisognerebbe capire che cosa vuol dire estremizzare, perché nel diciamo cosiddetto movimento... Beh, insomma, le parole di Rush Limbaugh, le parole di Sarah Palin parlano chiaro in questo... Sì, però io neanche unificherei diciamo i due movimenti, cioè perché allora Glenn Beck diciamo che è considerato di estrema destra, è assolutamente libertarian diciamo sui temi economici e non è per niente coinvolto sui temi sociali. Allora bisogna capire in questo variegato mondo diciamo che compone il fronte conservatore del Partito Repubblicano chi fa cosa e chi crede in cosa. Beh, per esempio la volontà di un'opposizione distruttiva, no? Allora, dichiaratamente distruttiva, al di là delle proposte, diciamo che l'intensità dello scontro può essere considerato estremo, poi però diciamo c'è l'intensità dello scontro dei social conservatives e c'è l'intensità dello scontro portato avanti dalla destra economica. Allora io mi chiedo se forse lo scontro non sia interno anche al movimento conservatore, fra queste due anime, piuttosto che fra il movimento conservatore e un non meglio identificato Partito Repubblicano Democratico, di cui io sinceramente non ho traccia a livello di base. Eppure a me sembra sono rimasti un paio di congressmen ormai, Olympia Snow forse. Io sto parlando proprio di attitudine, voglio dire, in un paese come il nostro, dove ci siamo ormai abituati a vivere, no, sull'onda del Berlusconi anti-Berlusconi, capire una logica americana che si comincia a disegnare con Obama anti-Obama, una volta tanto è agevole, è facile, non credi? Sì, secondo me, però la cosa non è tanto Obama anti-Obama, è più diciamo invadenza dello Stato anti-invadenza Stato. E non è le una politiche cosa che... sociali chiaramente sono al centro della questione. Certo. Sì, è ovvio che poi Obama è il simbolo concreto e presente di questo tipo di politiche, ma questo è una caratteristica del movimento conservatore da almeno il 1964, a quanto risulta a me. La verità è che per esempio a New York 23, più che elezioni generali, ci sono state le primarie del Partito Repubblicano. Ricordatevi che si rivota nel 2010 a New York 23. Certo. Hoffman sarà il candidato del Partito Repubblicano, prima diciamo dalla base, ma adesso persino Polenti, che insomma è considerato un moderato, il governatore del Minnesota, lo ha appoggiato, c'è stata la corsa ad appoggiarlo negli ultimi momenti. È ovvio che poi l'elettorato repubblicano, sono successe tante di quelle cose in così poco tempo a New York 23 che diciamo si è trovato disorientato, la scorsa fava ha preso il 5% malgrado si fosse ritirata, certo. Vorrei vedere aspetterei il 2010 prima di parlare di autodistruzione, perché magari potrebbe essere invece un attivismo concreto e sano che ridà fiato a un partito che invece durante i suoi anni di governo si era oggettivamente molto appannato. Bene, vi do 30 secondi a testa per due volte, quindi 2-30 secondi per esaurire due argomenti che mi sembrano assai interessanti di quanto è andato in scena ieri. Il primo è il caso New York, la vittoria risicata e i rimpianti democratici dopo che Bloomberg è stato rieletto. Guido? Beh, c'è una stanchezza dell'elettorato per figure che sono forse troppo a lungo sulla scena. C'è questo dato anche negli Stati Uniti, secondo me, almeno e poi anche questa storia dei soldi probabilmente è stata vista in maniera un po' stucchevole da parte dell'elettorato, che insomma che con i soldi si uno, però sta di fatto che ha vinto Bloomberg, questo poi è il dato di fatto. Andrea? Io mi sono chiesto per tutti gli ultimi due mesi della campagna elettorale perché Bloomberg continuasse a riversare milioni di dollari. Ma dice che però ha fatto arrabbiare i newyorkesi con tutti questi soldi. Però poi alla fine forse ha fatto bene perché se non le avesse spesi, io non so, cioè, sinceramente ha vinto veramente con un margine molto ridotto. Molto ridotto. Non mi aspettavo. Con un candidato neanche particolarmente brillante. L'ultima parola che vi voglio... I democratici non hanno investito poi. Nulla, soprattutto Obama, che infatti oggi è sulla graticola. L'ultima parola vi voglio sottoporre, una breve riflessione per uno. Partecipazione è la chiave di un nuovo voto, mi sembra di capire. La partecipazione, quella oltre che qualitativa, anche quantitativa, Guido? Sì, partecipazione è la parola chiave della politica oggi, però siamo attenti anche al fatto che ci sono molte elezioni negli Stati Uniti, quindi non si può nemmeno chiedere all'elettorato tutta questa presenza costante ai seggi, già il prossimo anno si vota di nuovo, insomma si vota molto spesso negli Stati Uniti, teniamo conto anche di questo. Andrea? Beh, diciamo che la teoria di Karl Rove è che in America vince chi riesce a portare i suoi al voto, e in questo caso l'elettorato repubblicano è sembrato estremamente più galvanizzato di quello democratico. Forse questo è un po' un effetto Obama, nel senso che la parte sinistra del partito si aspettava di più e probabilmente la parte destra del partito si aspettava di meno. Aspetterei anche in questo caso il 2010 prima di trarre conclusioni serie. Io ringrazio naturalmente Guido Molteto, capo della redazione Esteri di Europa, e Andrea Mancia, vice direttore di Liberal, per i loro pareri, per come ci hanno aiutato a ragionare, a decifrare il voto americano di ieri qui a Buongiorno America. I ragionamenti continuano a fluire, ne continueremo a parlare nei prossimi giorni. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Pietro Lacorte, email buongiornoamerica@radio24.it, pagina Facebook, redazione Jefferson 3, replica dopo mezzanotte, diretta dopo l'una e mezza qui su Radio 24. State tutti bene.